Ad alta voce. Francesca Gatto legge Grace Paley. Arrivederci e tanti auguri. In certi ambienti, dice zia Rose, avevo un discreto successo. Non che fossi più magra, questo no, ma la carne era più soda. Col passare del tempo, Lilly, non te la prendere. È volontà di Dio che si cambi. È così per tutti. Solo una come tua madre, che sta in piedi per scommessa, è capace di non accorgersi che non ha più il di dietro di una volta. Sono 30 anni che canta all'orecchio del canarino. Ma chi le dà retta comunque? Papà è in negozio. Tu e Seymour badate i fatti vostri. E lei se ne sta nella sua cucina, lustra come uno specchio e aspetta una buona parola pensando: povera Rosie, povera Rosie. Se solo avessi un po' più di sangue nelle vene, la mia sorellina capirebbe che al posto del cuore è un autentico ateneo dei sentimenti e che c'è un tale via vai di informazioni tra il mio corsetto e me da far sembrare la sua vita di moglie una specie di asilo d'infanzia. Oggigiorno mi puoi sempre trovare in qualche albergo, in una zona o nell'altra. Chi la vuole una casa? Per vivere come una serva, sempre con lo straccio della polvere in mano tra uno starnuto e l'altro. Sono in ottimi rapporti con il personale. E assai meglio che stare in una casa, tanta gente diversa e ciascuno ha le sue ragioni. Anch'io, Lilly, ho la mia buona ragione. Tanto tempo fa affrontai la caporeparto. Signora, le dissi, se non posso star seduta accanto alla finestra non ce la faccio. E lei, con fare gentile, come vuoi ragazza, se non ce la fai a rimanere seduta, prova a stare in piedi all'angolo della strada. Ecco come persi il lavoro al reparto confezioni. Per trovare un nuovo lavoro risposi a un annuncio. Diceva: ente culturale cerca signorina, presenza, salario medio. Salii sul tram e andai nel luogo indicato, il Russian Art Theater della Seconda Avenue, dove davano il meglio degli spettacoli yiddish. Cercavano una donna per il botteghino, una come me, che ci sapesse fare con la gente e tenesse fuori gli scrocconi. Venni ricevuta dal direttore, un bel tipo. Mi disse subito: Rosie Lieber, certo che è un bel personale. «Ce n'è per tutti i gusti, signor Krimberg. Non pensare male, bambina», soggiunse. «La cosa non mi dispiace, anzi. Una ragazza che non ha niente davanti e niente di dietro spreca solo il suo sangue a tener caldi i mani e piedi, anziché farlo circolare dove serve». «Ho un debole per i complimenti», gli dissi. «Va bene, signor Krimberg, purché non allunghi le mani». Andò così. $9 la settimana, un bicchiere di tè tutte le sere, un biglietto per la mamma ogni settimana e libero accesso per me alle prove. I primi $9 erano già nelle mani del droghiere, pronti a prendere il largo, quando Krimberg mi fece: «Senti, Rosie, c'è un signore che conta, che dà lustro al nostro grande teatro. Vorrebbe fare la tua conoscenza. Devi averlo stregato con i tuoi occhioni castani». Non indovini, Lilly? Sta a sentire. Davanti a me c'era Volodya Vlashkin, in carne ed ossa, a quei tempi soprannominato il Valentino della Seconda Avenue. Gli diedi un'occhiata e dissi fra me e me: «Dove è potuto diventare così alto un ragazzo ebreo?» «Nei dintorni di Kiev», disse lui. «E come? Mia madre mi ha allattato fino a 6 anni. In tutto il paese ero l'unico a godere di buona salute». «Dio mio, Vlashkin, 6 anni! Avrà avuto il seno a brandelli, povera donna!» «Mia madre era bella», disse lui. «Aveva 2 occhi che sembravano stelle». Che modo di esprimersi! Ti strappava le lacrime. Dopo questa presentazione, Vlashkin disse a Krimberg: «Dove hai tenuto nascosto questo splendido fiore?» «Il suo posto è là, dove si vendono i biglietti». «Bene, David, pensa tu ai biglietti per una mezz'ora. Ho in mente grandi cose per il futuro della ragazza e della nostra compagnia. Su, Davide, fai il bravo. E lei, signorina Lieber, mi faccia contento. Venga con me da Feinberg a prendere un bicchiere di tè. Le prove sono lunghe. Ho bisogno di un po' di quiete con una persona amica. E così mi portò da Feinberg, dietro l'angolo. Un posto pieno di ungheresi e di urla assordanti. Sul retro c'era un tavolo sempre riservato per lui. Sulla tovaglia, tanto di scritta ricamata personalmente dalla padrona del locale. Qui mangia Vlaškin. Bevemmo in silenzio il nostro bicchiere di tè per la gran sete e alla fine decisi cosa dire. Signor Vlaškin, l'ho vista 2 settimane fa, prima di cominciare questo lavoro, nel gabbiano. Mi creda, al posto di quella ragazza non degnerei di uno sguardo il giovane borghese. Potrebbe anche spartire dalla scena. Non so proprio come Chekhov abbia potuto mettervi insieme nello stesso dramma. «Ti sono piaciuto?» mi chiese lui, prendendomi la mano e accarezzandola. «Bene, bene. Faccio ancora colpo sui giovani. E ti piace anche il teatro?» «Bene. E sai una cosa, Rose? Hai una mano così bella e calda, una pelle così morbida. Ma dimmi, perché tieni quel fazzoletto al collo? Così nascondi la tua bella gola. Sono finiti i vecchi tempi, non è più il caso di vergognarsi.» «E chi si vergogna?» feci, togliendomi il fazzoletto, ma la mano corse subito al suo posto, perché, per la verità, i vecchi tempi non erano ancora affatto finiti e io ero ancora il tipo che si scioglie dalla vergogna. «Ancora un po' di tè, cara?» «No, grazie, sono già un samovar.» «Dorfman!» gridò lui, regale. «Porta a questa bambina un seltzer con ghiaccio fresco.» Nelle settimane successive ebbi il privilegio di conoscerlo sempre meglio di persona e anche l'occasione di vederlo sul palcoscenico. Era autunno, il teatro pieno di gente che andava e veniva, prove senza fine. Dopo il fiasco del gabbiano, andò su il commesso viaggiatore di Istanbul, un gran successo. Le signore impazzivano per lui. Alla prima, nel bel mezzo della scena iniziale, una signora, vedova o magari col marito troppo preso dal lavoro, cominciò ad applaudire e a gridare «Vlaškin! Vlaškin!». Dopo un po' il chiasso era tale che gli attori dovettero interrompersi. Vlaškin si fece avanti. Solo che non era Vlaškin. Era un uomo più giovane, coi capelli nerissimi, vivace, i piedi in eterno movimento, la lingua sciolta. Si ripresentò mezzo secolo dopo, alla fine della commedia, un grigio filosofo, uno che sapeva tutto della vita perché si era letto un sacco di libri, le mani morbide come seta. Piansi, pensando a chi ero io, nessuno, e che un uomo simile potesse guardarmi con interesse. Poi ottenni un piccolo aumento, dovuto al fatto che lui, gentilmente, mise una buona parola per me, e inoltre per 50 centesimi a serata ebbi il piacere di partecipare a una scena di gruppo insieme a cugini, parenti e ragazzi fanatici di teatro, e di vedere, come le vedeva lui ogni sera, centinaia di facce pallide in attesa di essere trascinate a ridere o a chinare il capo per il dolore. Venne il triste giorno in cui baciai mia madre e le dissi addio. Vlaškin mi aiutò a trovare una stanza conveniente nei pressi del teatro per avere più libertà. Così anche il mio amico famoso avrebbe avuto un posto dove riposarsi lontano dal rumore dei camerini. Lei piangeva e piangeva. «È un modo diverso di vivere, mamma», le dissi, «e poi lo faccio per amore». «Tu, proprio tu, una nullità, un buco marcio in un pezzo di formaggio, mi racconti cos'è la vita?» urlò. Molto offesa la piantai in asso. «Ma ho un buon carattere, lo sai, i grassi sono fatti così, troppo gentili», e pensai, «povera mamma, è vero che ha più esperienza di me. Ha sposato un uomo che non le piaceva, un malato, con lo spirito già divorato da Dio. Non si lavava mai, aveva un odore triste. Gli caddero i denti, i capelli, rimpicciolì, avvizzì a poco, fino a quando, a rivederci e tanti auguri, se ne andò. E mamma si ricordava di lui solo quando andava alla cassetta della posta in fondo alle scale a ritirare la bolletta della luce. In memoria di lui e per rispetto dell'umanità, decisi di vivere per l'amore. E tu non ridere, ragazza ignorante. Credi che sia stato facile per me? Dovevo pur passare qualcosa alla mamma. Ruti, insieme al tuo papà, risparmiava per mettere insieme la biancheria, un paio di coltelli e forchette. Al mattino dovevo lavorare a Cottimo per poter stare per conto mio. Facevo fiori. Prima di pranzo, tutti i santi giorni, sul mio tavolo cresceva un vero e proprio giardino. Ecco la mia indipendenza, cara Lilli, un fiore di carta che sbocciava, ma non aveva radici. Nel frattempo, anche Krimberg mi prese di mira. Certo, osservando il successo di Vlaskin, avrà pensato, apriti sesamo, e altri della compagnia non furono da meno. A quei tempi mi stavano dietro Krimberg, come ti ho già detto, Carl Zimmer, che faceva sempre il giovane ingenuo con tanto di parrucca, Charlie Peel, un cristiano capitato nel mucchio per caso, ideatore di scene bellissime. Il colore è il suo forte, diceva Vlaskin, sempre preciso. Ti dico tutto questo per dimostrare che la tua grassa vecchia zia non era triste e sola. In quegli anni vorticosi avevo amici interessanti che mi ammiravano per la mia giovinezza e perché ero un'ascoltatrice di prim'ordine. Le attrici, Raisele, Maria, Esther, erano solo interessate al domani. Venivano corteggiate dai ricchi, dai produttori, dall'intera industria dell'abbigliamento. Il loro passato era un puntaspilli, il futuro la cruna di un ago. Finalmente venne il giorno in cui non riuscii più a trattenermi. Dissi, Vlaskin, un piccione viaggiatore mi ha raccontato che hai moglie, figli, annessi e connessi. Vero, non racconto storie, non fingo. Non è questo il punto. Com'è questa signora? Mi fa male chiederlo, ma racconta, Vlaskin, la vita degli uomini è qualcosa che non conosco bene. Bambina, te l'ho detto 100 volte, questa stanzetta è il convento del mio spirito inquieto. Io vengo qui, nel tuo asilo innocente, per rinvigorirmi nel mezzo di una vita di angoscia. Via, Vlaskin, seriamente, com'è questa signora? È una brava donna, Rosy, classe media, buona madre per le mie 3 figlie, tutte femmine, brava cuoca, bella in gioventù, ormai non più giovane. Vedi, potrei essere più sincero? Ti affido, cara, la mia anima. Qualche mese dopo, al ballo di Capodanno del Club degli Artisti Russi, incontrai la signora Vlaskin, una donna dai capelli neri raccolti in uno chignon basso, rigida e troppo altera. Era seduta a un tavolino e parlava con voce profonda a chiunque si fermasse un momento a conversare. Il suo yiddish era perfetto, ogni parola tagliata come un gioiello di valore. La guardai. Mi notò, come notava chiunque, fredda, come la mattina di Natale. Poi si stancò. Vlaskin chiamò un taxi e non la vidi mai più. Povera donna, non sapeva che stavamo sul medesimo palcoscenico. Non sapeva certo quale veleno io fossi per il suo ruolo. Quella sera stessa, più tardi, vicino alla mia porta, dissi a Vlaskin: «Basta così, questo non fa per me. Sono stufa di questa storia, non sono una rovina famiglie». «Ragazzina», disse lui, «non essere sciocca». «No, no, arrivederci e tanti auguri», dissi io. «Sono sincera». Andai a stare dalla mamma per una settimana di vacanza, ripulì tutti gli armadi e sfregai le pareti finché non venne via anche la tinta. Lei mi fu molto grata, tuttavia la sua dura esperienza la spinse a dire «Questo è il risultato, se vivi da vagabonda diventi matta». Dopo pochi giorni tornai alla mia vita di prima. Quando ci incontravamo, io e Vlaskin dicevamo solo salve e arrivederci. Poi, per alcuni anni tristi, ci scambiamo appena un cenno con la testa, come per dire sì, so che ci sei. Nel frattempo si era sviluppata tutta una strategia nuova. La tua mamma e la tua nonna cominciarono a portare in casa dei ragazzi. Tuo padre aveva un fratello, tu non l'hai mai visto, Ruben. Un tipo serio, mangiava pane e idealismo. Rosy, ti offro una vita nuova, libera e diversa. Come? Con me solleveremo le sabbie della Palestina per farne una nazione. Quella è la terra del domani per noi ebrei. Bene, Ruben, allora ci andrò domani. Rosy, dice Ruben, abbiamo bisogno di donne forti come te, madri e contadine. Non mi inganni, Ruben, avete piuttosto bisogno di cavalli da tiro. Non mi piace il tuo atteggiamento, Rose. In questo caso va e moltiplicati. Addio. Un altro era Yonkel Gurstein, un vero buontempone, sempre acchittato, con un temperamento molto eccitabile. In quegli anni, mi sembra ieri, le ragazze portavano biancheria da battaglia. Per lui era una questione di secondi. Dove aveva fatto tanta pratica un ragazzo ebreo? Oggi è più facile, immagino, no, Lilly? Santo cielo, è una domanda, non un insulto, quanto sei permalosa. Beh, ormai saprai anche tu, tesoro, che qualunque cosa uno faccia, la vita non si ferma. Si riposa solo un minuto, lo spazio di un sogno. Mentre io dicevo no, no, no a tutti questi giovanotti sciocchi, Vlaskin andò in tournée in Europa. Mosca, Praga, Londra, Berlino addirittura, quando era già un posto messo male. Tornò e scrisse un libro, lo puoi trovare in biblioteca anche oggi, L'attore ebreo all'estero. Se un giorno o l'altro sarai un po' più interessata ai miei anni di solitudine, potrai leggerlo. Potresti farti un'idea dell'uomo dal libro. No, no, io non vengo nominata. Dopotutto chi sono io? Quando il libro fu pubblicato, fermai Vlaskin per la strada per congratularmi. Non sono una bugiarda, quindi gli feci anche notare l'egocentrismo di molte parti. Perfino i critici avevano detto qualcosa del genere. «Parlare non costa niente», mi rispose Vlaskin. «Ma chi sono i critici? Dimmi, cosa creano?» Per non parlare, continuò, di quel verso di Shakespeare in una delle grandi tragedie della storia d'Inghilterra. Dice «L'amar se stessi non è sì vil peccato, mio signore, quanto il trascurarsi». La stessa idea appare anche in tempi moderni nei moralisti seguaci di Freud. «Rosy, mi ascolti? Mi hai fatto una domanda. A proposito, sei in gran forma. Come mai niente fede nuziale?» Me ne andai da questa conversazione in lacrime. Ma questo incontro per la strada schiuse felicemente la via ad altre discussioni, su molte cose. Per esempio, la direzione, di vedute molto ristrette, non gli affidava più parti da attore giovane, idioti. Quale giovane conosceva abbastanza della vita da essere giovane come lui? «Rosy, Rosy», mi disse un giorno, «l'orologio del tuo roseo, roseo viso segna i 30 anni». «Le lancette sono lente, Vlaskin. Ne ho compiuti 34 il giovedì della settimana scorsa». «Davvero?» «Rosy, mi preoccupi. Avevo in mente di parlarti. Stai perdendo il tuo tempo, lo capisci? Una donna non dovrebbe perdere tempo». «Oh, Vlaskin, se sei mio amico, che cos'è mai il tempo?» Per questo non aveva una risposta. Si limitò a guardarmi sorpreso. Salimmo invece pieni di interesse, ma senza il passo spedito di un tempo, nel mio appartamento nuovo, nella 94esima strada. Le stesse foto al muro, tutte di Vlaskin, solo che ora era dipinto di rosso e nero come andava di moda, e la tappezzeria era nuova. Alcuni anni fa uscì un libro di un altro membro di quella bella compagnia, un'attrice, Maria Kavkaz, quella che aveva imparato l'inglese così bene che andò a stare nei quartieri alti. Nel libro lei raccontava certe cose su Vlaskin, per esempio che era stato il suo amante per 11 anni. Non si vergogna di scriverlo. Senza rispetto per lui, per sua moglie, per le sue figlie e anche per altre persone che possono essere coinvolte nella faccenda. Ora, Lilly, non ti sorprendere. Questo è un fatto della vita. L'anima di un attore deve essere come un diamante. Più sfaccettature ha, più il suo nome brilla. Tesoro, tu amerai certamente un uomo e avrai un paio di bambini e sarai felice per sempre, fino a quando non morirai di stanchezza. Più di questo, gente come noi non deve sapere. Ma un grande artista come Volodya Vlaskin, per fare il suo lavoro in palcoscenico deve esercitarsi. Ora lo capisco. Per lui la vita è come una prova teatrale. Quanto a me, quando l'ho visto nel suocero, un uomo anziano innamorato di una deliziosa ragazza, la moglie di suo figlio, interpretata da Raiselle Maisel, ho pianto. Le parole che diceva a questa ragazza, le dolcezze che le sussurrava, il modo in cui quei caldi sentimenti gli si leggevano in viso. Lilli, tutte queste esperienze le aveva fatte con me. Le parole erano proprio le stesse. Puoi immaginarti il mio orgoglio. Così la storia si avvia alla fine. L'ho notata dapprima sul viso di mia madre, la brutta calligrafia del tempo, scarabocchiata su e giù per le guance e attraverso la fronte. Perfino un bambino sarebbe stato in grado di leggerla. Diceva «vecchia, vecchia, vecchia». Ma mi inquietò molto di più vedere questa realtà nella meravigliosa espressione di Vlaskin. Per prima cosa, la compagnia si sfasciò. Il teatro chiuse. Esther Leopold morì di vecchiaia, Krimberg ebbe un attacco di cuore, Maria andò a Broadway, poi Raiselle cambiò il nome in quello di Roslyn ed ebbe un gran successo nel cinema come attrice comica. Vlaskin stesso, rimasto senza un posto dove andare, si ritirò. Diceva il giornale, «Un attore senza rivali, scriverà le sue memorie e passerà gli ultimi anni in seno alla famiglia, tra i nipotini, luce degli occhi dell'adorata moglie». Questo è il giornalismo. Organizzammo una grande cena in suo onore. A questa cena gli dissi convinta che fosse l'ultima volta. Addio, caro amico, centro della mia vita. Ora dobbiamo separarci. E aggiunsi tra me e me. Finito. Questo è il tuo letto solitario, con una grassa signora in menopausa. L'hai voluto tu. Da questo letto solitario cadrai alla fine in un altro letto, non così solitario, popolato da 1 milione di ossa. E poi cosa succede? Indovina, Lilli. La settimana scorsa, mentre lavavo la biancheria nel lavandino, sento squillare il telefono. Scusi, parlo con la Rose Lieber che lavorava alla Russian Art Theater? Sì, sono io. Bene, bene. Come stai, Rose? Sono Vlaskin. Vlaskin? Volodya Vlaskin? Proprio così. Come stai, Rose? Si tira avanti, Vlaskin, grazie. Stai bene? Veramente, Rose? Sei in buona salute? Lavori? La mia salute, considerando il peso che deve portare, è di primo ordine. Sono tornata già da qualche anno dove ho cominciato, nelle confezioni. Molto interessante. Senti, Vlaskin, dimmi la verità. A cosa devo questa telefonata? La telefonata? Per tenere i contatti con una vecchia amica, una vecchia compagna affettuosa di giorni più felici. La mia situazione, fra parentesi, è cambiata. Sono in pensione, come sai. Inoltre, sono un uomo libero. Cosa? Cosa vuoi dire? La signora Vlaskin ha chiesto il divorzio. E come mai? Hai cominciato a bere per la malinconia? Ha chiesto il divorzio per adulterio. Vlaskin, mi scuserai, non ti offendere, ma hai 17-18 anni più di me e anche per me tutte queste sciocchezze, queste fantasticherie e incubi sono ormai solo piacevoli argomenti di conversazione. Le ho fatto notare tutto questo. Mia cara, le ho detto, il mio tempo è passato, ho il sangue secco come le ossa. La verità è, Rose, che non è abituata ad avere sempre intorno un uomo che legge ad alta voce nei giornali gli eventi interessanti del nostro tempo, che aspetta la colazione, che aspetta il pranzo. Così, man mano che passano le ore, si arrabbia sempre di più. Quando arriva la sera e mi serve la cena, è diventata una vecchia furibonda. e ha tante informazioni sugli ultimi 50 anni con cui insaporirmi la zuppa. Di certo in quel teatro c'era un Giuda che ogni giorno andava a dire e mentre il mio cuore batteva grazie ai suoi sorrisi era al telefono a spifferare tutto a mia moglie. Una fine così stupida, Volodia, per una storia tanto allegra. Cosa intendi fare? Per prima cosa potrei invitarti a cena e a teatro nei quartieri alti, si intende. Dopodiché siamo vecchi amici. Ho soldi da buttar via. Tutto quello che il tuo cuore desidera. Le altre sono come l'erba, il vento freddo del tempo gli ha strappato il cuore. Di te, Rosy, ricordo soltanto le cose buone. Quello che una donna dovrebbe essere per un uomo, tu sei stata per me. Non credi, Rosy, che una coppia di vecchi amici come noi potrebbe divertirsi un po' con le cose materiali di questo mondo? La mia risposta, Lilly, arrivò tutta ad un fiato. «Sì, sì, vieni su», dissi. «Chiedi il numero della stanza al centralinista, faremo una chiacchierata». Così salì quella sera e ogni altra sera della settimana e parlammo della sua lunga vita. Fino all'ultimo un uomo affascinante e, come tutti gli uomini, fino all'ultimo, ben deciso a non farsi incastrare. «Senti, Rosy», mi dice l'altro giorno, ti rendi conto che sono stato sposato con mia moglie per quasi mezzo secolo? E il risultato? Guarda che amarezza. Più ci penso, più penso che saremmo pazzi a sposarci. Volodya Vlashkin, gli dissi pronta. Quando ero giovane ti ho scaldato la schiena fredda per molte notti senza fare domande. Ammettilo, non avevo pretese. Ero buona. Non volevo essere chiamata Rosy Lieber, la rovina famiglie. Ma ora, Vlashkin, sei un uomo libero. Come puoi chiedermi di salire in treno con te per andare in alberghi sconosciuti fra gli americani senza essere tua moglie? Vergognati. E ora, carissima Lilly, racconta con la tua bocca fresca questa storia alla tua cara mamma. Da me non vuole sentire nemmeno una parola. Sa solo gridare «Svengo, svengo!». Dille che in fin dei conti avrò un marito, cosa che, come sanno tutti, una donna dovrebbe avere almeno una volta prima della fine della storia. Mamma mia, sono in ritardo. Dammi un bacio. Dopotutto ti ho vista crescere da un semplice seme. Quindi fammi gli auguri il giorno delle mie nozze. Augurami una lunga vita felice e molti anni d'amore. Abbraccia la mamma e dille, da parte di zia Rose, arrivederci e tanti auguri. Francesca Gatto ha letto Grace Paley, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it